La zanzara extra. Sono tornato. Metti un orecchino nel tuo orecchio, signor Crucciato. Mamma, sono tornato. No. Non sono convertito. Sono tornato nell'Islam. Ideona, facciamo il rosario della zanzara. Ogni tastino si accende un commento di Donato da Varese e i vari, mettiamo tutti. Allora, caro Parenzo, a Pordenone si candida come sindaco, leggo, apprendo dai quotidiani locali, sì, il limitatore del Duce, te lo ricordi? Il signor, sì, Polegato, ristoratore. Ah, sei l'ubriacone, sì, no, sì, ristoratore, sì, sì. Ristoratore, un Ferdinando cretino. Polegato. Un cretino. Uno cretino. Che ha un ristorante in cui si mette là a imitare il Duce. Te la ricordi l'imitazione del Duce come fa? Non me la ricordo. Ma non lo so, imitazione patetica. Com'è l'imitazione del Duce, eh? La parola d'ordine è una sola. È lui, eh? Polegato. Categorica. È impegnativo per tutti. Questo dentro il ristorante. Essa si trasfora ed accende i fuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vabbè. Vincere! Questo si mette a imitare il Duce nel suo ristorante. Si è Beh, candidato dovrebbero. A sindaco. Mandare lì una volante, fare una retata in un'unica giornata e risparmiato tutto. Il bello che vuole mettere nella sua lista, te la ricordi, la nostra amica Ciriani, la sexy professoressa, la sì, porno prof Anna una lista Ciriani. Del circo, anzi il circo è rispettabile, ma insomma è una lista da io direi che comici. La telefonatina, una bellissima telefonata farei, proprio al ristorante. Tanto sarà aperto a quest'ora, sì, no? 19:39, 25 aprile, dici che lui festeggia. No, non festeggia, dunque lavora. Pronti? Polegato! Eccolo. Che fai? Sono qua che cerco di pagare i debiti che fanno le sinistre qua. Lo sai che mi sono candidato a sindaco a Pordenone? Sì, ho letto da qualche parte. Che disastro. Che disastro. Esatto, io sono con Rebalton, si chiama la ma che la è? La lista Rebalton? La dovevi chiamare Duce, non Rebalton. No, Rebalton, ho fatto una lista. No, arrivano Rebalton. I mostri, dovevi chiamarla. Arrivano dai, i mostri. Nel mio sito, Rebalton vuol dire l'Italia rovesciata. Adesso allora io ho scritto che siamo governati da massoni, da mafiosi e da marionette. Addirittura, ecco, massoni, vabbè, mafiosi e marionette. Meglio quelli, esatto, dei fascisti. Allora ho scritto, io volevo scrivere fucciliamoli alle spalle per altro tradimento, eh? E ho scritto mandiamoli in galera per altro tradimento. Ma solo il nostro slogan è raddrizziamo insieme l'Italia, ma ci vuole raddrizzare con un po' di manganello, eh? Ci vuole manganello, ecco. Sì, ci vuole il manganello, Cruciani. Ma ci vuole la neuro, ci vuole la neuro dei liri. Non ho capito, con gli Parenzo, ci vuole la neuro. Vedi che li voglio bene a Parenzo. Anche no, se... io no, mi fai schifo, altro che bene. Beh, ma non mi fai un cazzo, ma è quello che pensi di me. Reciproco. Puoi venire a trovare, così ci facciamo schifo a vicenda, Parenzo. Non metto piede in quel posto io, dove ci sono fascisti. Meno male che non entrano persone come te, Parenzo. Non metto piede, tranquillo. Posso venire con un camion di letame, volendo. Allora il camion letame, quando arrivi tu sei già un letame te per se stesso, vuoi portare anche il camion? Adesso? Arrivo lì con un camion di letame davanti al ristorante. Polegato, io non ho capito una cosa, io ti voglio bene, lo sai, no? Non ho capito che cosa vorresti fare, fucilare tutta la classe dirigente? No, ascoltami una cosa, qui noi siamo a 70 anni che ci hanno indebitato in una maniera folle. Vabbè, allora? E allora a un certo punto o facciamo una rivoluzione armata, e questa sarà la fine, sì. Ma siccome che Polegato non è violento momentaneamente. Beh, detto momentaneamente, ho capito. E chi sono i traditori dell'Italia? Oggi chi sono? I primi? Tutti quanti. Ma facciamo una lista. Iniziamo dal capo dello Stato, i capi dello Stato, perché Napolitano è il peggio pezzo di merda che ci sia. Ma ci sono pezzo stati di merda? Capi di Stato. Poi? Sì. Poi dopo anche adesso. Ma come si permette? Un capo di Stato archiviato, messo dentro, come si chiama, nel dimenticatoio, lo tirano fuori Mattarella, che nessuno l'aveva mai sentito, perché sì, Mattarella, chi cazzo è Mattarella? Ma chi è Mattarella? Mattarella sarà un mafioso come tutti gli altri. Scusa, Polegato, io non ho capito una cosa, ma... Valduce comunque, sempre. Di Valduce? Speriamo che lo vengano ad arrestare, dai. Ma anche oggi di Valduce? Ma per forza, oggi sono in lutto, ho messo la fascia al lutto, perché io sono il Duce, oggi non è stata la liberazione. Sì. Non abbiamo liberato. Il Duce, ricordati che nel primo periodo ha fatto grandi cose, ha fatto la rivoluzione. Ma che cosa hanno fatto? Scusa, Polegato, ma pensi veramente di poter diventare sindaco a Pordenone, no? Ma per forza che divento, io divento podestà. Sì, podestà. E dopo vado diventi un pirla. Anche a Sacile, lì dov'è. Io divento podestà, ricordati podestà, di Pordenone, perché io sono gente normale, non sono qui gente impazza come con... Ma scusa, hai candidato podestà, pure, hai candidato pure la sexy professoressa, la Ciriani. Per forza, perché tutti quanti l'avevano ripetuto. Ma malato mentale l'avete messo in lista, no, quelli sono già lì. Dì che vada a cagare, parecchio. Malato mentale, mettilo in lista un malato mentale, tanto è uguale. È più autorevole di tutti gli altri. Se metti un malato mentale in lista, è più autorevole di quella cloaca di roba che hai messo in piedi. Guarda, fidati. Ma stai scherzando? Ma certo che lo faccio, vincere come vincere. E vinceremo, ricordi? Sì, con un carico di letame. Una cura. Ma prego, perché devi bere già nelle prime ore della giornata? Perché vermi non eletti, non rompetemi i coglioni il 25 dicembre, che è un giorno di lutto per me. 25 aprile, ma è tutto sfasato. Sì, ma si vuole candidare e non sa neanche in che periodo dell'anno siamo. Ma questo è pazzo, ma neanche il condominio gli si può... È il 25 dicembre, è Natale il 25 dicembre, somaro d'un somaro. Non ha neanche la concezione del tempo. Sto povero idiota, ma è una roba incredibile. Sei un'attrazione da circo, no? Sei sui giornali. Mai il circo per te. Mamma mia. Non ti metto neanche con gli animali, perché preferisco gli animali che te, Parenzo. Manca soltanto la donna barbuta là dentro. La donna barbuta devi candidare. La donna barbuta, il nano che salta nel cerchio di fuoco. Quello devi fare. Sotto di te candido anche una merda di quelle. Ma ecco, mettila in lista, che manca solo quella. Comunque. Polegato, che ne pensi degli omosessuali? Allora, gli omosessuali maggiorenni mi va bene, a me non mi piace il discorso che adottino dei figli. Per me dire, avendola, ti dico, io gli farei una castrazione chimica e lo impalerei, punto. Impalerei. È pazzo. È difficile trovare il palo grande. Ma io spero che lo querelino, però veramente buttino via la chiave di questo qui. Guarda, ma come si permette? Ma come? Lo impalino. Ma che c'entra? Ma questo è pazzo, ma gli devono chiudere il locale anche. Ma siamo impazziti. Ma che c'entra avendolo impalato? Io sono libero. Allora, siamo in democrazia, hai detto il signor. No, non di dire stupidaggini. La democrazia non è insultare e dire puttanate, hai capito? Ascoltami una cosa, uno che adotta i bambini per me va castrato chimicamente, capisci? È impalato, è un matto. È impalato pure, dici. È impalato anche. E mio nonno e mio padre mi ha sempre insegnato che la famiglia è composta da un uomo e una donna. I figli nascono da un uomo e una donna. A me non ho mai sentito che due uomini devono fare. Io sono contrario, posso pensarla così o dovete cambiarmi voi la mia idea? No, per carità. Allora, io e con questo chiudiamo. Vincere! Meglio. Vincere! Vinceremo, manda a fanculo Parenzo, va. Ciao Parenzo, stammi bene, che ti vengano le emorroidi. Ciao. Ciao. Allora, caro David, c'è una notizia che viene da Platie, che ha un sindaco dopo non so quanti anni di commissari, eccetera, eccetera, credo 10, 12, 10 anni, 13, 10 14 anni. Platì Calabria. Il problema è una città, come dire, per anni, forse anche adesso, preda della 'ndrangheta. Esatto. È praticamente la capitale del narcotraffico internazionale, considerata la culla della 'ndrangheta. Platì. È stato eletto un sindaco che si chiama Rosario Sergi, 63% dei voti. Secondo la commissione parlamentare antimafia, avrebbe rapporti con alcune cosche. Vogliamo capire se gli abitanti di Platì conoscono il significato della parola 'ndrangheta. Beh, certo, ci e se sanno che cos'è la 'ndrangheta. Secondo te lo sanno o no? Ma certo, sarebbe come se in Veneto dice, scusate, come il Veneto, sapete Venezia? Beh sì, c'è in Veneto, certo. C'è una cosa che loro vedono, credo vedono. Facciamo dei numeri a caso, dai. Facciamo dei numeri a caso a Platì. Iniziamo, che ne so, da una famiglia che si chiama, ne so, o Sergi, oppure si chiama, che ne so, boh, non mi ricordo, è uguale. Fatemi un numero, ragazzi, prendetemi l'elenco di Platì, Prendetemi l'elenco di Platì, vai. Thank you.

Ma sabato Marchini è stato con noi, è stato i convegni che abbiamo fatto a Udè Bernini, Piazza Barberina. È venuto pure lui, Barberini. Ma non è venuto lui, è venuto a Piazza non Barberino, sa niente, Barberini. Ma senti una cosa, rispondimi un attimo una cosa, ma tu che faresti? Italia Morale che vuol dire? Tutti in galera, sì, manderesti? Tutti in galera? I corrotti, come di Roma, non si deve presentare nessuno. Come nessuno? Nessuno, i candidati che stanno presentando, compresi i 5 Stelle, non si deve presentare nessuno. Ma come nessuno? Come la sinistra uguale, la sinistra, tutti i corrotti sono la sinistra, sì, lo sappiamo, no? La sinistra sono tutti corrotti, vabbè, ma i 5 Stelle no, però. E i 5 Stelle che fanno? Non capiscono niente, capiscono zero. A Livorno hanno fallita, a Pomezzo hanno fallita, a Civitavecchia hanno fallita. Scusa, questa Raggi, però, questa Raggi è una che sembra carina, simpatica, brava. Ma quella Raggi che dice solo barzellette, c'è la Raggi, è una donna così. Fisicamente, bella donna. Fisicamente è carina, però, sta. Ma fisicamente, che ne fai fisicamente, fratello mio? Fisicamente, che ne fai? Che? La morale, c'è tutta Roma, la morale. Vabbè, la morale. La morale non ce l'hanno i 5 Stelle. Perché non ce l'hanno? Basta, non ce l'hanno i 5 Stelle, la morale. Scusa, ma un attimo una cosa, Cavalier, ma questa Raggi, che cos'è che non ti piace? È una bella ragazza, innanzitutto, no? Come la trovi tu? E che c'è? Mangiamo bella ragazza, che mangiamo noi, già mangiamo bella ragazza. Il popolo ha bisogno di gente per bene. Il popolo. Il popolo italiano, il popolo romano. Senti una cosa. Questa Raggi. Ma vuoi fare? Ma cosa dice? Ma chi muore di fame? La gente non ci fa a fine mese, non riesce ad arrivare a fine mese. Ma che c'entra il comune col fine? Scusa, con la gente, ma se i politici basta, chi cazzo ci va a governare Roma? Scusa, Italia Morale. Cioè, ci vai tu, fai il sindaco tu e poi chi metti come assessore? Tutti la gente che conosco, tutto morale, Nesso Morale. Tutti non mai rubato, mai rubato i soldi, mai. Manca mai solo il divino gruppo, nulla. Assessore alla viabilità. Allora, non ho capito, come giudichi, per esempio, che ne so, Giachetti, lo conosci Giachetti? Sì, io conosco, ma è fuori moda, è fuori moda. La Meloni? Uguale, è da vecchia Repubblica, dai, con Berlusconi, la vicepresidente della Camera, il ministro. Bertolaso, sta la protezione civile, dai. Vabbè, questo lo sappiamo, gente nuova, mai fatto politica. Vabbè, Marchini è buono, ti dici, no? Marchini è buono, ma non ha mai fatto politica, ha fatto tre anni e basta, Marchini. Tomba su Marchini, è finito Marchini, Parenzo, finito. Ha rovinato i 2 minuti. No, allora, ma Marchini è una persona per bene, onesta, una persona per ma bene, tu onesta, faresti... Il gay pride a Roma. Ah, tutta a casa loro, i proci ne voglio te, i proci io. Ma come, che significa? Ma questo si cambia. I proci vuole a casa, isola, il straniero, tutto a casa loro. Ma come gli stranieri a casa? I turisti? Che programma è? E i turisti? I turisti, va bene, i turisti vogliono arrivare, sono due notte e poi partono. Come di notte e poi partono? Ma come vengono? Gli alberghi, i turisti, tutto a casa loro. Ma che vuol dire turisti ma a casa loro? Che di programma è? Come fa a guadagnare Roma? Come fa a prendere i soldi? Guadagno Roma. Scusi, i turisti, chi può venire e chi non può venire? Come faresti tu? Ma io invece sono quelli che c'ha i soldi, non c'ha i soldi non può venire a Roma. Ah, solo chi c'ha i soldi può venire. Certo, solo quelli che c'ha i soldi. Beh, ci sono un sacco di pellegrini che vanno dal palco. Ci sono vanno il panino, se vanno il panino e basta i pellegrini, dai, sono solo il panino. E allora? Vanno a fare la pizzicheria, spendere 20 euro e sta mangiando la panina. Fuori, tutti via, basta, bloccare tutto. Tutti via, a casa loro, tutti a casa loro. E i froci? I froci a casa loro, uguale. Ma tu a casa loro? Stanno come? Magari... Casa loro. Ci sono un sacco di froci a Roma, che facciamo? A Roma noi vogliamo i froci a Roma, Mio, è pieno di froci a Roma. No, non è vero, vuol dire che Roma non la conosci, guarda Roma, ma è pieno di froci. Ma è pieno di froci! Ma no, Cavaliere! Non vogliono essere mignotte, ma froci no. Ah, ma tu le sei... Io sono d'accordo con te, i froci non ci sono. Mignotte, sono d'accordo con te. Ma io ho detto niente. Mignotte, che faresti? Luci rosse, quartieri? Luci rosse, quartieri, chiudeste le case chiuse. Bei tempi quelli, bei tempi. Bei tempi. Andavi a Mignotte pure te, quando ero ragazza, sì. Ma anche adesso pagherai sicuramente, o no? Ma che paga? Già pagai, io sono un bel ragazzo, già pagai, che paga pagai? No, le mignotte, dico, non le paghi? Gratis, sarei con me, gratis, sei bella. La morale, c'è il partito della moralizzazione. Ma che cazzo c'entra? Morale. Ma scusa, la morale. Scusa, Cavalier, ma ancora ti si rizza a te, quanti anni hai? Si alza ancora, 75 anni, si alza ancora, ma col Viagra? No, sono pratica, zero, sei niente, zero. No, sei sicuro che non pigli Viagra, Charlie? Sicuro, il 100%, il 400%. E tua moglie quanti anni ha? No, mia non ce l'ha più, mia moglie è morta 16 anni fa. 16 anni fa, chi c'è adesso? Adesso, sono solo io, Sei solo, dunque, con chi vai? io, guarda che donna, tutte le donne del mondo. Sì, ma con chi concretamente? Quante ce n'hai? 20 anni, 25, 30 anni, ma 40 amico mio, 20 anni, una di 20 anni, ce n'hai 70. 20 anni, pure 20 anni. Ma non è che vengono, com'è che le paghi queste qua? Ma che paga? Dai 10 euro e fai finita la storia. Ma come 10 euro una di 20 anni? Ma che ma Italia, Italia morale, amico mio, Italia morale. Italia morale, bravo, Italia morale, Italia morale. Italia morale paghi 10 euro una di 20 anni. Ma dai 10 euro, basta, 10 euro, basta, la mangiare con panino e basta. Scusami un attimo, euro. Tu lo sai, Parenzo. Sono curioso di sapere quali saranno i talenti presenti nella lista di questi. No, ma Davide, devi sapere che lui è un grande tifoso dei tassisti, vorrebbe eliminare tutto il trasporto pubblico tranne i taxi. Esatto, esatto, i tassisti è migliore assoluto. Sì, ho capito, ma gli autobus non possono uscire, tutti i tassisti accendono di Roma. No, ma non ho capito, i tassisti e la metropolitana non si deve usare. No, ma la metropolitana è chiusa, chiusa, bisogna chiusa la metropolitana. Gli autobus? Gli autobus in periferia, vanno in periferia. Al centro di Roma solo i tassi, solo i tassi. Solo i taxi al centro di Roma. Scusa, ma la gente come fa coi soldi? Scusa. Come fa? Insomma, i pullman pagano 30 euro, i pullman fanno Calossè, Piazza Venezia, non finiti. Minimo un tassi, 155 persone. Pizza di Roma, mezza giornata. Ma ho capito, amico mio, ma 150 euro mezza giornata sono un sacco di soldi, una marea di soldi, 150 ma 5 euro. Persone, 30 euro, vanno sull'autobus, vanno a 30 euro per venire a Roma. Ma è roba incredibile, guarda. Se deve finire questa storia a Roma, se deve finire i vecchi politici a casa, i vecchi politici a casa, tutti nuovi. Italia morale, Italia ma Italia morale. Morale di che? Quale Italia morale? Se vai, se vai con le bambine di 20 anni per 10 euro, li dai. Ma dietro loro, scusa, dietro loro, con loro, mica gli dì, non ne ho mai chiesto a nessuno. Ma scusa, ma i froci che si sposano a Roma, lo faresti tu se fossi sindaco, no? Faresti un bel registro? No, no, no, i froci niente, niente i froci, a casa loro. A casa loro quale se abitano a Roma? Quale casa ma loro? Se non abita a Roma, li mandiamo fuori Roma, mandiamo a Pomezia. Cacciare i froci da Roma. Cacciare i froci da Roma. Cacciare i froci da Roma, vabbè. Che... Ah. Ma su, sai cosa significa la parola Carminati, Buzzi, sai cosa significa? Ma questa dice, la devi dire, la vecchia è giunto comunale. Mafia capitale, mafia capitale. Ma c'è ancora la mafia capitale, Quanti comunicati stampa che ho fatto, i commissari di Roma, ce l'ho fatto 20.000, hanno, sì. hanno dato, l'AMA, hanno dato la falsa, ho detto al commissario, c'è ancora la mafia dentro, la mafia capitale, c'è ancora dentro la mafia. Ma tu che faresti con questi mafia capitale? Butteresti la chiave? Arrestati e buttare la chiave? Subito, la chiave subito, per tutta la vita dentro un carcere. E la pena di morte? La pena di morte no, lasciamo la pena di morte, la togliamo da mezza pena di morte. Io moro lì, dentro al carcere. Butta la chiave. E i Rom? I campi Rom? I Rom, li chiudi fuori Roma, li metti in campagna, metti ai pecore. Metti i maiale, lì hanno ma i Rom, e dunque i campi Rom chiudere, magari anche sterminarli, perché no? Sterminare no, Rom. Sterminarli no. Però metterli in campagna, in campagna, appresso alle pecore. Parezzo, un gran programma mi sembra questo qua. Sì, un programma un po' ambizioso e anche confuso da certi punti di vista. Però... Il cavalier Mario Auriemma, un applauso al cavalier Auriemma, dai, applausi al cavalier Auriemma. Cavaliere! Veramente vi voglio bene, ma detto questo, Parenzo mica tanto ultimamente, ma lei che Cruciani l'ammiro perché io mi ricordo sono stato uno dei primi a dire che lei è un grandissimo gourmet della gnocca. Parenzo, che fine hai fatto? Comunicato dell'editore Mario Capanna. L'editore Mario Capanna. La gente protesta. Dirama questo messaggio a tutti i radioascoltatori della cosiddetta Radio 24, appartenuta in passato al gruppo degli industriali eversori, padroni di questo paese. Domani alle ore 8 del mattino occuperemo una fabbrica in provincia di Vicenza e una conceria. Allora le compagne e i compagni si armino di zainetto con dentro tutto il necessario per poter passare almeno 3 notti all'interno della fabbrica. Perché un operaio è stato licenziato perché le hanno detto fannullone, cioè per 4 giorni non si è presentato al lavoro. Gli hanno mandato una visita fiscale. Ovviamente lui era a riposarsi in montagna a Cortina d'Ampezzo ed è stato per questo licenziato. Non possiamo tollerare tutto questo. Non è possibile tollerare. Negli anni 60 gente così veniva presa a calci nel culo, non il lavoratore. Ovviamente il padrone non si sarebbe mai permesso di fare una cosa simile. Ergo, compagni e compagni, domani mattina ore 8 a Vicenza in questa conceria, diamo una lezione come facevano i Katanga negli anni 60, come Dio comanda. Grazie. Io voglio capire una cosa, ma com'è possibile? Pronto? No, a parte c'è sempre il mistero su come riesca a inserirsi dentro la radio, ma la cosa pazzesca sarà è questa. Che è l'ultimo giorno, ma com'è possibile poi... che uno che si candida a guidare l'industria italiana sostenga che uno che per quattro giorni va a Cortina d'Ampezzo in montagna invece che lavorare debba essere, come dire, protetto? Sì, da capisce, una cosa incredibile, guarda, pazzesco. Però Gabriel, Milano, vai, vai, anzi Michele dalla provincia, aspetta, prima Gabriel, fermo là, Michele dalla provincia di Cosenza, che è un po' di tempo che aspetta, Michele, vai. Sì, Cruciani, buonasera, salve, io volevo dire sì, che mi sento offeso dai gay. In che senso, Michele? Bene. Allora, ti dico, io faccio l'autotrasportatore, sì. Mi sono fermato in una piazzola e c'era un ragazzo con un vibratore attaccato alla ventosa della macchina che faceva, mi faceva vedere. No, però scusami, questa sì. Non l'ho mai sentita, però scusami. Allora, tu sei un camionista, giusto? Sì, giusto. Cioè, dov'è che viaggi di solito? In che zone bazzichi? Ma vado fino a Roma, da Catania fino a Roma. Da Catania fino a Roma, insomma, percorri una lunga parte d'Italia, no? Sì, ogni 4 ore e mezza devo fare la mia pausa di 45 minuti. E dunque entri in una piazzola, diciamo, no? La maggior parte entro, diciamo, nell'area di servizio, però alcune volte capita che con l'orario non ce la faccio e mi fermo nelle piazzole. Dunque? Quest'estate c'era un ragazzo con la macchina ferma di sera... con il vibratore, con la ventosa. Ma la ventosa, che cos'è la ventosa? Non capisco la ventosa. Ah, un vibratore, hai visto la ventosa, quella che si attacca? Cioè, ma per appendere il vibratore al vetro? No, sì. E lui faceva uso di questo vibratore e mi faceva la lingua. Mo, dico io, no, è normale. Ho capito, ma che ha fatto? Che ha fatto, scusa? Come, che si inculava? No, eccola. Non ho capito. Non ho, eccola. No, ma eccola, sta facendo eccola. Una descrizione adesso, scusami. Ma non era necessario. Allora, eccola. Ha attaccato questa ventosa alla macchina. Ah, ho capito. E lui a pecorina faceva quello che aveva. Benissimo, ho capito. Ma che dici? È una descrizione di Michele di quello che avveniva. Ma quale descrizione? Ma siamo mica a report qua, dai. Ma che roba è? Vabbè, Michele, comunque, ma allora... Poi anche guarda. Lui che guarda. Ma che guardi? Guarda la strada, vai avanti, no? Ma qual è il fastidio che ti ha dato? Perché dopo 4 ore e mezza di guida c'è il verbale. Ma che fastidio ti ha dato? Solo lui le vede sta robe. Scusami, solo Michele, no, non le vede, solo lui. Ma scusa un attimo. Allora, ma se io mi fermo che faccio i miei bisogni, è normale che mi trovo uno dietro di notte con il pistolo di fuori? Ma che roba è? Ma qual è il problema? Non ho capito. Che può succedere di strano? Che può succedere di male? Che può succedere? Ma scusa un attimo, no? Ho capito, se ma se questo qua si limita... No, ma guarda che sei forte pure tu, Michele. Io adesso non voglio difendere chi fa le sconcerie, le porcherie per strada. Anche se Cruciamo una differenza. Se mi fermo io in una piazzola e si ferma una donna che guida un pullman, perché ci sono, guidano i camion. E vabbè, lo denuncia per... E io mi tolgo il pistolino di fuori e faccio qualche gesto. Penso che avrò qualche denuncia. Vabbè, ma perché non l'hai denunciato allora questo signore? Perché la polizia mi ha detto non possiamo farci niente. Ma che fastidio ti ha dato? Oggettivamente, che fastidio ti ha dato a te? Mi faceva schifo. Vabbè, ti faceva schifo, ho capito, ti faceva schifo. Questo è un esibizionista, un mezzo pazzo che si mette a fare quelle sconcerie. Ma io sono per fatti miei, non ho capito perché. Vabbè, tu fai questi la grande gesti. Curiosità, Parenzo, è perché l'ha narrato, no? Perché l'ha raccontata questa cosa? Curiosità per te. Ma no, ma il perché la... Succede tutte le notti, vabbè, lo sappiamo. Ma no, ti sorpassano. Allora, guarda, uno mi ha seguito per oltre 100 chilometri. Pure. Ma e che sei? Sì, Brad Pitt, chi sei? Brad Pitt dei camionisti, chi sei? No, sono malati. No, ma ho capito, ma non è che... Ma siccome di camionisti ce ne sono tanti, non è che uno che ti segue per 100 chilometri... sicuramente... Evidentemente sei una specie di modello dei camionisti, Ma non lo so, ma neanche mi vedono quando guido di notte. Però ti seguono, ti fanno gli stop, ti tagliano la strada, magari se sono in due la macchina ti fanno vedere il sedere. Ma io non ho mai visto nulla di tutto ciò. Vabbè, tu non è che viaggi di notte col camion. Mi è capitato col camion, no, ma con la macchina mi è capitato di chiamare. Sì, ma perché lo so, ma abbiamo già dato da questo punto di vista, Michele, abbiamo fatto illo tempore, abbiamo dove non ti puoi fermare. Ma lo so, abbiamo dedicato tantissime puntate per la gioia di Parenzo alla questione delle piazzole frequentate dai gay sull'autostrada. Veramente tante tantissime puntate, per carità, si può anche continuare, non è quello un problema. Però adesso addirittura fare l'appello ai camionisti per descrivere le loro notti brave nelle autostrade è una roba vecchia, passata, andata, lo sappiamo che c'è questa cosa qui. E vabbè, fa parte della vita, fai il camionista, fai viaggi di notte, incontrerai pure in autostrada qualcuno che chiede prestazioni sessuali. Non credo che ci sia l'assalto, tu ci stai descrivendo un assalto, o no? Ti posso anche indicare i posti. No, ma questo va benissimo. Parenzo, vuoi andare a fare un'inchiesta per fuori onda? Non è oggi tra le mie priorità, però magari potrebbe essere nel 2022, potrei occuparmi. No, 2022, sì. No, ma 2043. Adesso non vi dare per il culo. Uno mi scrive, confermo, è tutto vero. Ma l'assalto, io voglio capire, Michele, c'è l'assalto? Tutto vero. Allora, c'era un parcheggio dopo Ponte Cagnano che è stato chiuso dalla polizia. Addirittura? Apposta per questo. Sì, sì, sì, non sto scherzando. Si chiamava, non mi ricordo adesso il parcheggio, però subito dopo Ponte Cagnano direzione Napoli l'hanno chiuso apposta per ordine pubblico. E vabbè, ho capito che dobbiamo fare. Perché c'era l'assalto, l'assalto gay. No, c'erano 30, 40, 50 appunto, macchine. È una specie di esercito gay. Tu con i fari entrate verso lo schifo. Ma lo schifo. I preservativi che c'erano là, secondo me, una fabbrica di preservativi non ci sono. Michele comunque è il numero uno nel racconto, eh.